24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. I deputati 5 Stelle vengono a evidenziare come le famiglie si stiano impoverendo. Beh, questo cozza, come talvolta accade, contro la realtà dei fatti e dei numeri. Comincia la festa, ma la festa è festa, soltanto ad un patto che spacchiamo tutto, per noi la festa è questa qua. Fatto 6 mesi fantastici, eh? L'Italia va migliorata molto, le imprese. Lo stanno a sentire seri. In questo semestre le imprese ne chiudono 2 ogni ora. La disoccupazione è al 13, quasi al 13,5 questo semestre. Fantastico. Violenza, chiamala come ti pare. Le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi. Ci dobbiamo sfogare. In questo semestre il debito pubblico è aumentato di 74 miliardi rispetto al mese dell'anno scorso. L'economia italiana vive una fase di terrore, di preoccupazione. E questo viene qua a parlare di un semestre. E basta che analizzi la faccia, gli occhi, l'espressione è fantastica. È il concentrato del non è. Semestre europeo visto, come dire, da due punti di vista diversi, eh? Renzi che parlava in un Parlamento europeo deserto, e Grillo che lo guardava e diceva, come dire, controrispondeva, eh? Renzi che diceva A e Grillo che diceva B, Renzi che diceva bianco e Grillo che diceva ma no, è nero. Il semestre europeo italiano è finito, semestre di presidenza europea. So che magari non ve ne siete accorti, non lo so, cioè, credo che non siano come sempre gli argomenti principi delle vostre colazioni, dei vostri pranzi, delle vostre cene, ma così è finito il semestre europeo. Ed è finita anche Giorgio Napolitano. Oggi se ne va, si dimette il capo dello Stato. E allora via il gran refrain delle discussioni. Chi sarà il prossimo capo dello Stato? Chi lo sa? Sono le 6:31 minuti con questa domanda inquietante, con Giorgio Napolitano che dice «Sono contento di tornare a casa». Un vecchio proverbio diceva contento lui, contenti tutti, ma nel senso ci mettiamo il punto di domanda, contento lui, contenti tutti? 6:31 minuti? Queste 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, e si apra il Parlamento che tra poco dovrà scegliere. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Il ministro Boschi non è eleggibile, non è quirinabile, non ha almeno 50 anni e quindi no, il ministro Boschi rimane a fare il ministro, a bere il caffè qui a Radio 24, a 24 mattino. Che dire, è il 2015, ma i vecchi schemi non vanno cambiati. È mercoledì, allora intanto saluto Paoletta Generalessa Saluzzi. Buongiorno Alessandro, con pochissima voce, improvvisamente no. È arrivato un po' di freddo, però volevo dire che io ho raggiunto la quota quirinalizia, Vabbè, ma vedi che io non l'ho detto. Ma tu sei signore, sei gentile, ma come dice Monica Bellucci in copertina di Vanity Fair, a 50 anni siamo ancora femmine. Vabbè. Ma di fatto ci sono, quindi come dire, quota quirinale raggiunta. Capisco a te. Intanto io non buongiorno anche a Lucadini, ma tu sei in quota quirinalizia? No, devo aspettare 4-5 mesi. Quindi... 4-5 mesi? Attenzione, ritardiamo tutto. Però vabbè, ritardiamo un semestre, il semestre bianco. Grazie a voi tutti di aver seguito ogni mercoledì alle 6.33 Evviva le Rosse! E ricordate, dal 2015 Evviva le Rosse torna, ma diventa Evviva la Paola! Con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi! E altri quittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Come al solito il nostro ascoltatore ci ha aggiornato la sigla. Devo dire che insomma, io e Luca Dini possiamo pure prendere andarcene. Vai a bere un cappuccio, perché Paola... sarebbe un mondo senza cielo. Non si può fare senza di voi. Qua Paola Saluzzi e Paola Saluzzi. Ringrazio con tutto il cuore. Ringraziamo con tutto il cuore il nostro caro ascoltatore anonimo che ci ha mandato questa straordinaria sigla aggiornata, dopo Viva le Rosse, Viva la Paola. E va bene. Allora, cari Luca, cara Paola, qui basta, la strage di Parigi è archiviata sui giornali, perché adesso c'è il Presidente della Repubblica da eleggere. Dai, facciamo subito il toto, perché l'avevamo aggiornato. Tra l'altro, ecco, Lucadini, voglio subito partire. Io mi ricordo che tu avevi fatto il nome di Emma Bonino. Hai visto che è successo, mannaggia. Emma Bonino. Non cambio idea. Non cambi idea. Bravo. Questo certamente, però... come tu puoi ben capire in questo momento, altro a cui pensare, quindi Emma Bonino, devi darci un altro nome, perché in questo momento non è proprio pensabile, insomma, che possa essere lei. E quindi che dici? Cioè, chi sarà secondo te? Non quello che ti piacerebbe, Emma Bonino rimane, ma chi verrà fuori come nome? No, non lo so, onestamente non lo so. Non lo sai? No, perché oggi sui giornali danno Veltroni come nome che emerge. Tu, Paola, hai la tua carta da giocare? Magari. Sì, danno Veltroni, Prodi. Prodi, ecco. Prodi. Eccolo. O donne Finocchiaro piuttosto che Pinotti. Vabbè, Prodi. Sai cosa ha detto Umberto Bossi oggi sui giornali su Prodi? No. Testuale. Se Renzi mette Prodi, lo sparano. Bene, che di questi tempi mi sembra proprio... Sì, esatto, insomma, la dichiarazione più conciliante. La dichiarazione più conciliante, quella su cui riflettere di più. Bello. Lo sparano. Sono cose che accadono quando si apre la bocca così. Vabbè, per dire... e quindi tu dici o Veltroni o Prodi? Sì, potrebbe essere questo il schema. Ecco, visto che tu parlavi di schema che non si chiama, di sicuro da adesso fino al 27-29, fino a fine mese, è uno stillicidio al giorno, cosa anche normale. Partiamo dal presupposto, insomma, accadrebbe in qualsiasi paese. Ma sicuramente. Accade da noi, accade e comunque, da noi. E quindi avremo di che parlare ogni giorno. Scartare la margherita, non in senso politico, un petalo al giorno, uno che salterà al giorno, uno che verrà fuori. Parlano già di incontri segreti. Oggi Repubblica racconta che Renzi e Berlusconi si sarebbero incontrati lo scorso 19 dicembre, quindi si è venuto a sapere un mese dopo, in gran segreto, lontano da Roma. E Renzi avrebbe fatto a Berlusconi 4 nomi: Veltroni, Mattarella, Finocchiaro, porca miseria, il quarto me lo sono dimenticato. C'era tutto questo pathos. No, no, no, non è Prodi, aspetta. E Castagnetti, Castagnetti. No, Luca Dini ci vuole il semestre. Il semestre d'attesa. Neanche Paola Saluzzi. Il quarto non è Paola Saluzzi. Comunque, questi sono i quattro nomi che avrebbe fatto in questo incontro segreto. Sentiamo Napolitano. Napolitano che tra l'altro dice, mi è venuto subito così spontaneo. Napolitano ha detto che è un mondo difficile. Viviamo un mondo difficile. Questo ha detto Napolitano. Quindi, sì, così. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità, momenti. È futuro incerto, è un po' così, è un mondo difficile. Sentiamolo Napolitano. Sonata di Bento. Il momento è venuto, io saluto tranquillo. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. L'augurio al paese è quello di essere unito e sereno, anche perché viviamo in un mondo molto difficile. Caro Luca Dini, viviamo in un mondo molto difficile, insomma. Ti aspettavi qualche dichiarazione in più? Qualcuno dice, ma no, è nello stile di Napolitano. No, è nel suo stile, assolutamente. Che doveva dire? Questo è basta. Infatti. E basta. Vabbè, ma c'è, voglio dire, ma tu sei, perché oggi Libero, facciamo un po' gli sfrontati, Libero titola così in prima pagina, meno male, finalmente se ne va. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. Cioè stiamo un po' esagerando quella che è la successione di un Presidente della Repubblica che non doveva essere neanche eletto, poi sappiamo com'è andata, è stato eletto perché non trovavano nessun altro da mettere lì, oppure un momento così storico, un momento drammatico per la politica italiana? No, è un momento normale, però appunto lui non ci doveva essere, non ci voleva essere, quindi lo trovo come minimo inelegante, ecco, e non ne capisco la necessità. Cioè il fatto di dire meno male che se ne va? Lo trovi. Ma sono contenti che se ne vada, cioè, mamma, evviva, va bene, però parliamo di che cosa viene dopo piuttosto. Cioè, sì. Al solito c'è soltanto lo sfascismo. Cioè l'idea di dire, sì, infatti, che meno male, quello. Se ne va via, ma poi... Dirlo, scusa, cioè. Un po' come Grillo, attenzione, che ti rallegriamo la giornata. Se vuoi dire qualcosa su Grillo, siamo pronti a twittare. Sempre solo distruggere tutto. Possiamo attribuirti questa frase sul Movimento 5 Stelle? Così te la mettiamo su Twitter, ti raviviamo la giornata. No, spero assolutamente di no, perché ci si può costruire, però... Ogni tanto bisogna anche costruire, non si può solo sempre godere della disfatta. Fasciarsi. Però è così. Tu Paola che dici? Perché tu, la parte forse, ma tu Paola adori Napolitano, noi lo sappiamo. Assolutamente sì. Ecco. Questo titolo forse l'avrà suggerito lo stesso presidente della serie. La verità vera è stata detta a quel bambino o bambina, non ho ancora capito. Sì. E al quale ha detto, ma si torna a casa, qui non si può uscire, sai, quelle cose tipo, e adesso liberi! Esatto, quindi, sotto forse il titolo, sì, ovviamente polemico, che mantiene la propria linea fino alla fine, forse vuoi vedere che l'ha suggerito il presidente della serie, e io me ne vado, e sono lì, poi è un passo, perché vuol dire il Quirinale è qui, Via dei Serpenti, È lì vicino. Dove abita Napolitano è veramente un fatto. Ma è chiaro che Napolitano però da libero cittadino non ne poteva più, dai, insomma, detto. 9 anni veramente veramente sofferti. Quello che c'è di, come posso dire, di speciale in questo momento è che questo che verrà eletto è probabilmente l'ultimo presidente della Repubblica in quanto tale, perché ci avviamo a una repubblica presidenziale, spero. Ah, tu vorresti questo? Tra 7 anni anche sì. Anche sì, vorresti questo. Tra l'altro, eccolo qua il messaggio, lo sapevo, me l'ero tenuto. Eccolo qui. Cara Paola, sei pronto? Sei pronta? Sono pronta. L'ho riperso. No, l'ho ritrovato. L'ho ritrovato. L'ho riperso. Niente, c'è questo qua. Nino da Gioiosa Marea, eccolo qua. Cara Paola, mi ricordi le nostre arance rosse di Sicilia? Ma vogliamo parlare di succose? Buone e succose. Insomma. Ale. Grazie, Nino. Ale, vabbè. No, in realtà noi è chiaro che ho detto un po' polemicamente sui giornali, ci sono i grandi retroscena, le paginate, ora che succede, non è che è dimenticata in realtà la strage di Parigi. Tra l'altro voglio ricordare che oggi insieme al Fatto Quotidiano è in edicola il numero di Charlie Hebdo, lo trovate quindi anche in Italia, legato al Fatto Quotidiano con la nuova copertina. Che bisogna dire di questo? Ci sono tante cose che si potrebbero dire, partendo per esempio da quelle immagini che provengono dalla Siria, ma le avete viste? Quel bambino di 10 anni al quale mettono in mano una pistola per sparare alla testa a due spie che sono state per questo giustiziate, due spie russe trovate dallo Stato Islamico e uccise. Oggi ovviamente, se non avete visto il video, guardatelo, perché... Come dire, Paola, si può imparare molto anche da... La mostruosità inizia presto. La mostruosità la fanno iniziare presto, perché come nei peggiori eserciti, non perché ce ne siano di migliori, ma insomma, nei peggiori eserciti possibili, legali o illegali che siano, riconosciuti o non riconosciuti che siano, si inizia presto, è una scuola media, no? No, ma d'altronde, sì, ma è chiaro che, voglio dire, abbiamo di fronte, come scrive Gramellini sulla Stampa, non solo due vittime in quel caso, cioè le spie giustiziate, ma una terza vittima, questo bambino di 10 anni, che sono come le vittime, come in Nigeria, che fanno saltare in aria le bambine, i bambini, quelle città esplosive. Non si fermano, i mostri non si fermano, leviamoci il pensiero che un modo di ragionare possa passare per la testa di questa gente, cioè loro ragionano con un vocabolario che è solo loro e che tristemente è più forte degli altri, perché se tu armi un bambino di 10 anni e poi gli fai tutti i complimenti del mondo, magari lo premi per quello che ha fatto, lo rifarà, purtroppo, pensando di vivere dentro un videogioco. Questo è all'inizio, e poi quando lo trovi a 13 anni, 15 anni, se qualcuno non l'ha ammazzato prima, lo trovi un soggetto non più recuperabile. In questo dico che è vittima anche lui. Non so, tu Luca Dini hai visto questo filmato? A parte che ci sarebbe da discutere anche della qualità ormai mediatica raggiunta anche dallo Stato Islamico. Adesso, voglio è propaganda. Dire. È propaganda, però fatta bene, dico, dal punto di vista, quindi con le stesse armi occidentali che sulle quali sono molto, molto evoluti, hanno capito che la propaganda mediatica è fondamentale. L'hai visto questo video? Sì, no, mi viene in mente solo quello che disse, insomma, non voglio fare citazioni di cui non sono degno, però insomma, com'era, chi dà scandalo tra i piccoli si prende una macina, si arriga il collo e si butta di sotto, perché cioè, fare questa cosa a un bambino è veramente... Bravo. Cioè, non so che dire, come dire... Se non che c'è anche in questo il messaggio, ci racconto, io sono convinto questa tu cosa pensi qua, di sì, c'è anche, se vuoi, il messaggio, qualcuno ha fatto notare, come dire, il messaggio che volevano veicolare è questo: guardate, cioè non ci distruggerete mai, perché fino da bambini siamo pronti a fare questa guerra. È il contrario, questa cosa qua che li distruggerà, secondo me, cioè non è un progetto, ma è una follia, non costruisce niente così, nessuno. Io non credo, voglio dire. Tu credi che sia un'arma che... Ci sono vari precedenti, voglio dire, non sono andati bene. Un'arma che si ritorcerà contro. Vabbè, non rispondo, Giorgio, a chi mi scrive ancora la pena di morte per questi riguardi. Luca, sono un po' stanco, scrivo posto, ho raccontato la storia di Derek Rocco Barnabei, che tu anche conosci, anche molto meglio di me, che ci ha fatto conoscere anni fa, condannata a morte in Virginia. Basta, la pena di morte non serve a niente, la risposta... Anche perché nei paesi dove c'è dovrebbe andare tutto bene. La risposta più sbagliata, la risposta più barbara, non so... Poi non facciamo martiri, per carità. Ma sì, ma... Cioè, non se ne può più, ma il riflesso incondizionato è sempre: Giorgio, ci vuole, ci scrive, ci vuole la pena capitale per quelli che hanno armato la mano del ragazzo. Ma no, no, diciamo, basta, se, così ne uccidiamo altri. Se arrivasse un raffreddore molto pesante fatale, non, insomma, lo soffrirei, però insomma. Però non deve essere la risposta di uno Stato, no, di un'istituzione, visto che abbiamo fatto qualche. No, poi non, veramente non serve a nulla. No, non esatto. Sappiamo, l'abbiamo visto. Non serve assolutamente a nulla, caro ascoltatore. E il raffreddore pesante, però mi è piaciuto. Sì, e a chi chiede come Marine Le Pen un referendum popolare sulla pena di morte, bisogna rispondere che l'abbiamo già detto: sicuramente se fanno un referendum l'80% sarà a favore della pena di morte. Ma fortunatamente queste cose non sono negoziabili e non sono sottoponibili al referendum. Lasciamo perdere Marine Le Pen. 24 mattino. Allora, ricapitolando, Berlusconi è quello che ha fatto morire la politica a destra, Renzi è quello che ha fatto morire la politica a sinistra, Grillo è quello che ha fatto morire la politica in generale. E ora che si fa? Dove si va? Buh! Siccome io vorrei ridere per 7 anni, al Colle vorrei o Benigni o Brunetta. Cofferato sta ingazzato. Cofferato sta ingazzato perché l'hanno trombata. Sono stati i compagnisti. Sì, ciao Milan, sono qua alla frontiera italiana di Ventimiglia, tra Mentone e Ventimiglia. Non c'era neanche un furgone, non c'era neanche un posto di polizia, sia dalla parte francese che quella parte italiana. Diglielo Salvini, qua non c'è nessuno e c'ha ragione. Milan, vogliamo senatore Antonio Razzi, presidente della Repubblica. Stiamo raccogliendo firme, almeno quello conosce il lavoro, è stato in Svizzera e ruberebbe meno degli altri e farebbe meno danni, che lì chiunque va lì meno fanno, meglio è. Come si muovono, rovinano il mondo. Razzi, Antonio Razzi, spargiamo la voce alla grande. Non lo so, Antonio Razzi, Paola Saluzzi, potrebbe essere per te una buona soluzione, un buon compromesso? Ma possiamo anche fare altri nomi, insomma, possiamo anche andare avanti. Vabbè, basta perché? Non andare indietro. No, sì. No, che c'hai contro Antonio Razzi? No, voglio dire, risolveremmo il problema della pace tra le due Coree con Antonio Razzi presidente. Sì, intanto volevo arrivare con la sua visione così aperta e sincera del concetto di democrazia. Certo. Certamente. Sì, devo dire a questo ascoltatore, effettivamente Razzi sul Quirinale non è uno di quei titoli più gettonati, no. sui giornali italiani, no. No, si farebbe un pochino fatica, ma d'altronde anche no. Casini al Quirinale, per esempio, potrebbe essere un problema. Non si può. E quindi ci sono dei nomi che non sono gettonabili e fanno un po' fatica. Anche, anche Brunetta. Perché Brunetta? No, penserebbero Brunetta di ricchi e poveri. No, va bene per quello. C'è una protesta formale in corso. Caro Luca Dini, devo fare questa protesta, non contro di te, ma contro chi ci ha portato la mazzetta per due motivi. Uno gravissimo, c'è stato segnato sulla bolla Vanity Fair e dentro Vanity Fair non c'è. No, è gravissima questa cosa. Intanto per una truffa, perché è in corso, perché ci fanno pagare Vanity Fair e non ce lo danno. E poi non mi hanno dato Vanity Fair. Come facciamo adesso? Adesso devi descriverci Vanity Fair di oggi. Devi dirci che cos'è la copertina. La copertina è Colin Farrell. Però insomma ci sono parecchie pagine ovviamente su Parigi. Tante pagine su Parigi. Cosa ci racconti di Parigi oggi? Per esempio, l'aspetto delle falle dell'intelligence è stata trattata molto poco questa cosa. Avete visto l'altro video di quei due poliziotti che sono letteralmente fuggiti di fronte? Per carità, non è che c'era bisogno di due altri martiri, però l'hai visto quel video, caro Luca? Della macchina della polizia e... Sì. Escono i fratelli Quasci col Kalashnikov e questa macchina scappa in retromarcia e se ne va. Insomma, io non mi sento di dare giudizi, francamente, perché non credo al martirio. Ho capito, ma sono poliziotti, cioè per carità, neanche io credo al martirio. Ma cosa devono fare se non tentare di fronteggiare di fronte? È come dire, c'è una rapina in banca. Sì, qua purtroppo questi non è che volevano altro se non lo scontro a fuoco, la morte propria di altri. Quindi. Non so se hanno fatto così male, posso dire? Ma chi è? Perché non vorrei dirlo, insomma, io non faccio quel mestiere, però ripeto, non credo al martirio. E questi non volevano altro se non uccidere il maggior numero possibile di servitori del Stato. Sì, ma io non lo so se in quel momento i poliziotti lo sapevano che stavano per fronteggiare, se sapevano di fronteggiare coloro che avevano fatto l'attentato o se pensavano di trovarsi di fronte a due persone armate, non lo sappiamo, non lo so se sono tu Paolo, l'hai visto anche tu quel video, ma sì, un pochino colpito, una macchina della polizia che vede due col fucile fa una retromarcia a tutta velocità per scappare, insomma... Non è l'ideale, insomma, sì, su questo non ci sono dubbi. A col senno del poi forse è stato evitato un far west ulteriore per come sono andate le cose. Su questo poi si chiarirà, non è una frase per svicolare, insomma, è chiaro che non sia bello da vedere. Il non bello da vedere è poi la lista del questo lo conoscevamo, questo era uscito di galera e aveva fatto comunella in galera. Di questo si sapeva, di quest'altro si sapeva. Quell'altro, sai l'ultima che è uscita, Koulibaly ha chiesto 6.000 euro di prestito a dicembre a una finanziaria di quelle che ti fanno il credito. E noi invece gliene hanno dati, cioè gli abbiamo pure finanziato praticamente questa azione, 6.000 euro, eppure la persona nella no-fly list americana, nella no-fly list britannica. Assassino criminale. Ha preso 6.000 euro, li ha chiesti con urgenza, gli hanno dati sull'unghia e questi 6.000 euro sono serviti in qualche modo a finanziare questa azione. Mi fa piacere che in Francia i soldi li diano così, da noi se va un padre di famiglia a chiedere 6.000 euro deve portare anche le carte di suo nonno in cariola, insomma, per dimostrare l'albero genealogico, insomma, è singolare come fatto. Può essere un modo per in qualche modo contrastare anche questo. Vabbè, allora io no, ma no, ma guarda che è una protesta, sono molto arrabbiato, caro Luca. Sì, ma no, vogliamo, no, dire, non vogliamo dire di Vanity Fair. Però ce la vuoi descrivere la copertina? La vuoi descrivere meglio la copertina di Colin Farrell per Paola Saluzzi? Cioè, nel senso, come ha l'occhio, come... Ha due occhi, Colin Farrell ha due occhi. Colin Farrell, e come sempre siamo già in edicola, ma vogliamo fare i complimenti al direttore per aver messo un cane. È vero che eravamo rimasti sulla... certo! L'anno è stata meravigliosa! Ha messo un cane, però l'avevamo azzeccato che era un animale, Luca, eravamo rimasti così. Ma il senso che è stato dato alla copertina, grandioso, applausi. Ecco, applausi a scena aperta per... Sai che cosa c'è del numero di oggi? Ecco, infatti, diccelo. C'è una cosa interessante, secondo me, mi ha colpito molto, c'è la lettera di un padre alla figlia. Un padre alla figlia che si è innamorata, innamorarsi non è una colpa, di un integralista giovanissimo e quindi un padre che sta, cioè, che ha paura di perdere sua figlia, è una cosa che mi ha colpito tantissimo perché insomma ti immedesimi e dici ma io che cosa farei al posto di questa persona. No, certo, perché innamorarsi succede, sull'innamoramento non ci sono regole, non ci sono, però se succede in questo caso interessante. Non un terrorista, c'è, cioè, uno che non ha fatto niente, però che dice delle cose strane, aggressive, eccetera. E ti chiedi veramente come se ne esce. Come se ne esce. E andremo a leggerla quando arriverà. Avrò da dire un paio di cose all'edicolante oggi della mazzetta che ci ha portato. Io vi devo salutare, Paola, alle 15. Ma Milan al Quirinale, sì. No, io ho 44 anni. Come sei piccolo, gli anni dei gatti. No, 4 gatti in fila per 6, allora, col resto 15, di 2. Cioè. Il 24 apriamo con Alino Milan al Quirinale. Va bene, e quindi puoi chiudere subito. Apri e chiudi. Benissimo. No, politica. Ovvio, politica, la Paola Saluzzi è la generalessa. Alla prossima. Buon lavoro. Paola Saluzzi, la prima donna presidente della Repubblica Italiana. Ciao Paola, sei bella, sei forte, sei colta, cittadino italiano innamorato. Ciao, auguri. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate.

E sono delle conquiste che abbiamo ottenuto. Se non viviamo e se abbiamo deciso di non vivere in una società tipo la DDR comunista, stile il film Le vite degli altri, beh, il prezzo da pagare per la nostra libertà è anche purtroppo questo: sapere che purtroppo alcune persone non controllabili possono colpirci. Una soluzione per cercare di arginare tutto questo potrebbe essere, per qualcuno, e se ne sta parlando molto, creare una procura nazionale specifica, una super procura antiterrorismo. Per esempio lo vuole, l'ha chiesto tra gli altri, Stefano D'Ambruoso, che è con noi, è un magistrato, è oggi deputato di Scelta Civica. Buongiorno D'Ambruoso e ben ritrovato. Buongiorno a lei Milan, grazie, buongiorno. Perché secondo lei ci vuole una super procura antiterrorismo? Perché appunto ci stiamo sforzando di dire che nei paesi democratici la risposta deve essere di tipo democratico. Tipo democratico vuol dire che dobbiamo garantire a qualunque indagato, a qualunque persona che si vuole colpire con la macchina delle indagini e della prevenzione, un processo. Quindi tutta l'attività deve essere canalizzata fino alla fine verso un processo. All'inizio ci saranno i servizi segreti, poi la polizia giudiziaria, che in questo percorso raccoglie prove per portare tutto davanti al giudice, perché deve essere garantito il diritto di difesa. Questo lo impone un paese democratico. Ad oggi abbiamo uffici di coordinamento dei servizi segreti, ufficio di coordinamento delle polizie, manca quello delle magistrature. Questo è un gap che noi abbiamo rispetto all'Europa, che non ci possiamo più permettere. Cioè lei dice le procure singole non centralizzate, non possono fronteggiare una minaccia così parcellizzata, così nebulosa. Tutto, ogni notizia che arriva, che ne so, da Treviso, Palermo, Napoli, esatto, dovrebbe essere centralizzata in modo da coordinare meglio il tutto. Ed avere un'unica visione per capire che cosa sta accadendo sul territorio italiano nello stesso momento. E invece ieri è stata la conclamazione di questa frantumazione, perché per decidere se era opportuno o meno andare avanti in questo percorso della centralizzazione del coordinamento, si sono riuniti 18 procuratori della Repubblica con i due ministri interni della giustizia per capire se era opportuno o meno. Ma insomma, se 18 procuratori servono per fare l'antiterrorismo in Italia, allora vuol dire che siamo proprio nella conclamazione chiara del fatto che c'è una frantumazione che non ci possiamo più permettere. C'è il rischio poi che questa frantumazione giochi a favore di chi vuole colpire, tanti o pochi che siano. Io intanto le voglio presentare anche a lei, onorevole D'Ambruoso, Lorenzo Vidino, già nostro ospite, esperto di terrorismo all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno professor Vidino e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. A lei fa specie sentire che Coulibaly ha chiesto un prestito e l'ha ottenuto da 6.000 euro, chiedendolo con urgenza, e l'ha ottenuto sull'unghia, o è una delle notizie insomma che dovrebbe essere come le altre di questa tragedia? No, purtroppo in realtà è una dinamica paradossalmente comune. Mi ricorda il Mohammed Khan, che era il capo degli attentatori del 2005, che aveva anche lui ricevuto un premio per l'integrazione, aveva ricevuto 2.000 euro per poco prima degli attentati. Quindi ci sono queste dinamiche paradossali, mancanza di coordinamento probabilmente, se i servizi sanno che Coulibaly è un personaggio chiaramente poco raccomandabile, dir poco, non è che questa notizia viene diffusa con un'agenzia ad esempio che dà soldi. Ci sono delle falle indubbiamente nel modo di affrontare queste problematiche, manca coordinazione. Ma ci sono, secondo me, chiaramente condivido anche l'iniziativa dell'onorevole D'Ambruoso, secondo me è un fronte all'Italia a livello di altri paesi europei dal punto di vista della coordinazione. Esistono però dei limiti evidenti a quello che si possa fare con questo tipo di terrorismo senza ledere libertà fondamentali. Io me la sento anche di, in un certo senso, scusare i servizi francesi per alcune dinamiche. È chiaro che errori madornali sono stati compiuti. Per esempio, il più grave, secondo lei? Ma chiaramente col senno di poi si può dire di non aver monitorato i tre, e chiaramente di aver giudicato che questi tre fossero personaggi di seconda o terza fila, e quindi non averli monitorati a stretto giro. Poi anche tutta una serie di errori fatti nel post-attentato, non aversi immediatamente collegato l'attentato fatto da Coulibaly contro la vigilessa all'uccisione Charlie Hebdo, è chiaro. Quello che però vorrei dire è che c'è una qualità di lavoro per i servizi francesi come quella di ogni altro paese, forse in Italia un pochino meno, che rende il lavoro impossibile. Parliamo di 1200 soggetti che sono andati in Siria. Questo infatti è un po' il problema, cioè la parcellizzazione. A questo proposito le chiedo, in Italia si parla molto di questa ragazza che da Inzago alle porte di Milano, dopo essersi convertita, è finita in Siria, questo almeno secondo le ultime indicazioni. Non è davvero, intanto lei ne era a conoscenza, ne abbiamo parlato con lei anche di cosiddetti foreign fighters, la conosceva, era attenzionata, non è fermabile oppure sì? Dipende dal caso specifico se è fermabile o no, che ci sono una trentina, quarantina di italiani, anche cittadini, che sono molto interessati ad andare in Siria, sono andati, questo si sa, che alcuni siano donne, questo si sa. È chiaro che il problema anche qui è un problema giuridico, l'andare in Siria per sé non è un reato, non costituisce reato, io autorità inquirente devo dimostrare che tu vuoi andare in Siria per unirti a un gruppo terrorista, per commettere qualche reato, che fai parte di un'organizzazione, ma questo non è semplice da provare. Se io vado a comprare un biglietto per andare in Turchia, per poi prendere il mio autobus per andare in Siria, è chiaro che io l'autorità inquirente posso sapere perché tu sul profilo Facebook metti le foto di Baghdadi e inneggi al jihad. È chiaro che io so che vai per un determinato motivo, ma è difficile provarlo davanti a un giudice. Un conto è saperlo a livello di intelligence, un conto è saperlo a livello di magistratura, di caso da portare davanti a un giudice. Questo è un po' il problema. Onorevole D'Ambruoso, per esempio, si è saputo che la Procura di Roma indaga su 10 jihadisti, diciamo, in Italia. Facendo un po' riferimento alla sua esperienza passata, c'è un controllo stringente che può portare una tranquillità da parte dei cittadini sulle persone? Oppure, come abbiamo scoperto in Francia, magari le persone si conoscono, ma poi non ci sono gli uomini per controllare che cosa fanno? Guardi, oggi in Italia, lo dico fortunatamente, abbiamo quantità di pericolo, quindi numeri ancora controllabili. In Francia appunto i numeri erano quelli che abbiamo sentito, più di 1200 persone già partite, altre 300 monitorate già in attività rischiose, quindi in Italia viceversa abbiamo numeri che rientrano nell'ordine delle 10-15 persone davvero insomma degne di attenzione, e questo i servizi e le polizie riescono ancora a farlo con più che sufficiente insomma tranquillità per la nostra tranquillità. Quindi io oggi mi sentirei di essere, senza avere la palla di cristallo evidentemente, moderatamente ma con fermezza tranquillo. Il punto è che appunto noi non possiamo, non è possibile oggi, proprio perché viviamo giustamente in un paese democratico, mettere in carcere o espellere delle persone che, pur essendo cittadini italiani, cittadini europei, hanno questi profili di alto pericolo. Ecco. Ma perché? Cioè, non c'è un reato che possono ipotizzare di persone che stanno tramando comunque alle spalle dello Stato, tramando contro la sicurezza dei cittadini? Il tramare purtroppo, se coincide con la libertà di espressione del pensiero, se io dico sono stufo di Renzi e dico anche delle parolacce su Renzi, lo dico sul web, tutto questo è espressione di un dissenso rispetto ad una posizione. Se sul web, sui social network si registrano e vengono registrate continuativamente numerose centinaia di insomma affermazioni di disagio nel vivere in una società occidentale da parte di musulmani arrabbiati, ebbene quella è una libertà di espressione che ci sentiamo di poter comprimere perché li controlliamo. È già questo, perché violare la privacy è già un'affermazione di necessità di controllo, però andare oltre, insomma, per mettere in caso una persona. Lei però ieri ha fatto anche un'interrogazione parlamentare su questo, ha lanciato un allarme che a me è un po' inquietato, e cioè a Milano per esempio, dove ci sono delle associazioni che vogliono legittimamente cercare di costruire una moschea, ci sono anche nella lista accreditata al Comune di Milano di associazioni islamiche che vogliono costruire la moschea anche alcune sigle che lei dice comparivano in una blacklist anche di quando lei indagava. Ecco, questo mi ha inquietato abbastanza, ci può spiegare di che si tratta? Sì, nella richiesta di autorizzazione per costruire giustamente e legittimamente un luogo di aggregazione religiosa, quindi una moschea, da parte di alcuni rappresentanti della comunità musulmana presente su Milano, ecco, in questa richiesta parti di queste associazioni, che sono composte da vari gruppi prevalentemente etnicamente diversi, quindi tanti gruppi che si mettono insieme e fanno un'associazione, e chiedono di poter costruire una moschea. Ecco, piccolissimi gruppi, due in particolare su una decina di quelli che hanno fatto questa presentazione, sono presenti in blacklist di paesi come la Germania e come gli Emirati Arabi. Io ho chiesto al Ministro degli Interni se questo risultava anche nei registri delle persone che preoccupano, dei gruppi che preoccupano anche la sicurezza italiana, e se vi è una cooperazione fra appunto ministeri degli interni, quindi gruppi dell'intelligence della Germania e d'Italia, o degli Emirati e d'Italia, rispetto a questi gruppi. E su questo credo che ci sia, non so se è vero che i servizi di sicurezza algerini addirittura avevano avvertito Parigi dell'imminente attacco e questo non ha portato a nulla. Vorrei concludere con il professor Vidino a capire se esiste questo coordinamento, perché poi l'unica risposta vera è coordinamento, circolazione di dati tra i servizi di intelligence, circolazione di informazioni, come questo famoso PNR, cioè Passenger Name Record, le liste dei passeggeri sugli aerei. Questo c'è, Vidino, oppure siamo molto carenti e poi ce ne accorgiamo quando ci sono gli attentati? Siamo abbastanza carenti, diciamo che anche solo ad esempio la condivisione di dati tra l'Europa e gli Stati Uniti è stato un tallone d'Achille della cooperazione negli ultimi anni. Adesso le autorità europee stanno un po' cedendo perché vedono in realtà la pressione e l'urgenza, ma gli americani da anni si lamentano che non c'è questa condivisione. C'è chiaramente con alcuni paesi arabi un problema di condividere informazioni e di ricevere e di dare informazioni con paesi che sono dittatoriali, che nel loro modus operandi usano dei metodi che chiaramente non sono condivisibili e accettabili in società occidentali. Ci sono dei problemi anche a livello europeo di condividere informazioni, ci sono gelosie, ci sono delle mentalità, ma anche a livello interno, insomma, tra agenzie dello stesso paese, di gelosie, di non voglia di condividere informazioni, quindi è un problema indubbiamente. È un problema, e su quello che poi si annidano i rischi. Io ringrazio il professor Vidino e ringrazio l'onorevole Stefano D'Ambruoso di Scelta Civica. Vorrei prima della pubblicità sentire Rezza, ci chiama da Bergamo all'800240024. Buongiorno Rezza. Sì, buongiorno, grazie mille per l'opportunità. Niente, io riguardo questo finanziamento mi ha colpito proprio. Allora, io vivo in Italia da oltre 12 anni, ho permesso di soggiorno illimitato, eccetera. Sono iraniano. Sì. Qualche tempo fa ho deciso di cambiare lavoro, poi nell'attesa di arrivare in liquidazione sono andato in banca BNL a chiedere un finanziamento di 10.000 euro. E com'è andato? Mi hanno fatto firmare tutti i possibili documenti. Uno, viaggio al massimo due volte in Iran all'anno. Due, non possiedo nessun bene in Iran. Tre, mio figlio è nato a Bergamo, eccetera. Sì. Alla fine non mi hanno dato finanziamento. Non gliel'hanno dato, ma no, perché probabilmente i documenti li avranno fatti firmare anche a Koulibaly, perché non credo che gliel'abbiano dati. Gliel'avranno fatti firmare, il problema è che lui gliel'hanno dati, cioè che una persona così, che era finita anche attenzionata dalla polizia, eccetera, doveva finire in carcere. Giudizi più che giudizi, cioè vedono che okay, passaporto francese a posto, iraniano nato terrorista, punto. Ah, lei dice che hanno fatto questo tipo di associazione. Purtroppo è questo. In bocca al lupo per il suo finanziamento, Rezza. La ringrazio per questa sua testimonianza. Dopo la pubblicità vi ricordo che avremo anche il presidente, quando parleremo di cose italiane, il presidente dell'associazione ex consiglieri regionali della Lombardia, perché la notizia che tra l'altro abbiamo dato già anche nei giorni scorsi, ma che si è diffusa ieri sui giornali, è concretizzata, ufficializzata. 54, credo, una cinquantina di ex consiglieri della Regione Lombardia faranno ricorso, è un gran classico, contro il taglio prospettato del 10% del loro vitalizio, taglio che era proposto dalla Regione Lombardia per risparmiare un po' sulle casse pubbliche. Non è che gli toglievano il vitalizio, conquistato legittimamente facendo politica, ma glielo limavano del 10% e alzavano l'età pensionabile o vitaliziabile dai 60 ai 66 anni. Risultato: ricorso. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:40 minuti. Allora, ieri il Corriere della Sera nelle pagine diciamo, di Milano, li ha definiti, non so se, e qui abbiamo il presidente, il loro presidente, non so se è contento di questa definizione, gli uomini della resistenza. Cioè la regione Lombardia voleva tagliare del 10% i vitalizi degli ex consiglieri regionali e spostare dal 60esimo al 66esimo anno di età il limite per avere appunto diritto al vitalizio. 54 ex consiglieri regionali hanno fatto ricorso contro questo taglio. Saluto Luigi Corbani, che è il presidente dell'associazione ex consiglieri regionali Lombardia. Buongiorno Corbani, eccoci qui. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È stato vice sindaco a Milano, ma per questo non c'è vitalizio, perché, ma è stato soprattutto in regione. E come consigliere regionale quanto ha fatto lei, Corbani? Di... Una 5 anni. 5 anni, sì. Ci può dire quant'è il vitalizio per 5 anni di legislatura? 2.000 euro. 2.000. Allora, perché lei ha fatto ricorso insieme ad altri, no? Sì. La questione è sempre quella, i diritti acquisiti. Dunque, non si toccano. Dunque, innanzitutto noi avevamo proposto un fondo di solidarietà, un contributo di solidarietà. Sì. Fatto... con i contributi che tutti i consiglieri ex consiglieri potevano dare. Abbiamo sollevato però un problema. Questo fondo di solidarietà deve essere finalizzato a obiettivi specifici. Avevamo proposto per esempio di creare borse di studio per biologia, per biotecnologia, per scienze alimentari, anche in relazione all'evento dell'Expo, o per favorire l'apprendistato nei mestieri d'arte. Sì. Con un punto però, che non si faccia passare questa come la punizione di privilegi assurdi, perché questo è il vitalizio, che è un istituto che esiste in tutte le assemblee legislative del mondo, è il frutto di trattenute del 25% sulla che a suo tempo erano fatte. Ma infatti non ve lo toglievano, cioè, nel senso, appunto, si dice per fare di sacrifici vi tagliavano. Ma questo però i sacrifici devono essere di tutti. Allora non ha senso che un consigliere regionale in carica abbia 4.200 euro di rimborso spese forfettario senza giustificativi esente dalle tasse. Però presidente, questo sono è il solito discorso. Euro. O tutti o nessuno. Devono partecipare tutti a questo sforzo di solidarietà. E cominciamo con qualcuno, cioè nel senso... Benissimo, cominciamo con quelli che sono in carica e fanno la legge. Cominciamo con quelli che sono in carica e che fanno la legge, e dopodiché tutti siamo disponibili. E cioè, se lei vedesse prima loro, allora. No, prima loro, contemporaneamente. Io ho sempre detto, sono dispostissimo ad evitare qualsiasi ricorso, perché si spendono soldi, si perde tempo e sono inutili, perché alla fine poi c'è un principio dello Stato di diritto che nessuno può cancellare, perché oggi tocca a noi, domani potrebbe toccare alla sua categoria. Qualcuno dice, ma i prepensionamenti nel settore dell'editoria? No, non va bene questo. Ma guardi, però gli italiani in tutto questo, sa che molti mi scrivono, per esempio, dovevamo farlo il ricorso noi italiani, 50 milioni di italiani, quando ci hanno toccato le pensioni, lì i diritti acquisiti non... Certo che era sbagliato, ma io continuo a ritenere che è sbagliato. E però non hanno lo strumento, di dire il diritto acquisito, avevo la mia pensione. Lì gli italiani si vedono le cose cambiate nottetempo. No, appunto, è stata una scelta sbagliata, perché quello non risolve il problema del sistema pensionistico, quella misura. Tanto è vero che adesso siamo ancora a discutere di questa cosa qui. Però non può modificare solo in una direzione. Ci sono sentenze della Corte Costituzionale che hanno bocciato queste forme. No, ma guarda che infatti dal punto di vista del diritto io sono certo che voi avrete ragione. Cioè, nel senso, quello che il cittadino comune non capisce non è tanto dal punto di vista del diritto, è che in punta di diritto i diritti acquisiti non si toccano, quindi il vostro ricorso verrà accolto e nessuno toccherà il vostro vitalizio. Però lei, di fronte ai cittadini che dicono, ma insomma, vi chiedevano nel suo caso 200 euro su 2.000, quindi un piccolo sforzo. Ma le ripeto, non solo siamo disponibili, siamo disponibili ad andare anche oltre il 10%, purché sia finalizzato effettivamente a un contributo di solidarietà. Ma che vada a finire nel calderone della regione Lombardia, questo no. Se avessero detto questi soldi vanno finalizzati a qualcosa, lei non avrebbe fatto ricorso. Guardi, domani mattina ritiriamo i ricorsi. Se c'è una decisione in questo senso, una legge in questo senso che veda non solo il nostro contributo, ma il contributo anche degli attuali consiglieri regionali. Perché vede, la verità è sempre un po' diversa da quella che appare. Sì. Quando si dice abbiamo abolito il vitalizio per il futuro, vuol dire che però non hanno abolito, non è che hanno restituito la trattenuta che veniva fatta. Di fatto si sono aumentate di 1.900 euro lo stipendio. Perché non c'è la trattenuta. Però sa, lei dice il vitalizio, ed è giusto, è considerato uno lavora in politica e poi ha un vitalizio. Però mi dica, Presidente Corbani, dove esiste un lavoro per cui con 5 anni di lavoro, 5 anni di legislatura, uno ha 2.000 euro a vita, nessun lavoro da questo. Ma nessun lavoro ha una trattenuta del 31,25%. E beh, perché lo stipendio era alto. No, non era alto, perché allora la regione Lombardia era la più morigerata delle regioni, tanto è vero che la nostra legge sui vitalizi, fatta nel 1970 e poi rivista nel 1980 e poi rivista successivamente nel 95, prevedeva già che non era possibile, cioè uno poteva avere il vitalizio solo a fronte di contributi di questo genere e solo a 60 anni, altrimenti poteva ritirare tutto quello che aveva versato, ma non aveva diritto a nulla. Però scusi, se lo stipendio non era alto, se il vitalizio è parametrato sul 31% che viene trattenuto, evidentemente per avere 2.000 euro era alto lo stipendio. Quanto era il suo stipendio? Guarda, era 5 milioni allora. 5 milioni di lire e i rimborsi spese per attività effettivamente prestate erano da giustificare ogni volta. Di che anno stiamo parlando? 5 milioni di lire? Stiamo parlando degli anni 90. Beh, accidenti, 5 milioni di lire non erano poco, Non erano poche, ma non erano le cifre di adesso. No, cioè, non erano certo le cifre di adesso, i 10.000 euro, gli 8.000 euro. 11.000 euro. 11.000. Di cui, ripeto, 4.100 euro al mese sono esenti dalle tasse senza giustificativi come rimborso. Insomma, parliamoci chiaro, voi avete fatto un po' ricorso anche per rivalsa nei confronti della regione, cioè di coloro che dirigono la regione, a dire voi non vi tagliate nulla e adesso vi rivalete su noi che abbiamo fatto per 5 milioni al mese, invece voi ne guadagnate 11.000. Sì. Perché per vicenda politica sono il primo ad essere contro i privilegi e sono il primo ad essere contro il moralismo a senso unico, cioè quelli che fanno la lezione agli altri, perché la solidarietà la chiedono gli altri. Però per una diatriba tra attuali dirigenti ed ex dirigenti, il cittadino guarda e assiste con quale sentimento, secondo lei, Presidente Corbani? Secondo me di vergogna, di sdegno. Esatto, e sono d'accordo con il cittadino, sono io ad essere il primo. Ma che senso ha che si chieda un contributo di solidarietà a una categoria perché viene demonizzata questa categoria e il resto fa il furbo? Demonizzata, vi chiedono il 10%, vi chiedono un sacrificio senza demonizzare. Sì, ma perché? Perché solo noi? Cioè, se la regione Lombardia avesse detto benissimo, da oggi tutti consiglieri in carica ex hanno il 10% in meno, benissimo. Però solo noi no, che siamo cornuti e mazziati. Perché? Il peggiore. Perché? Vabbè, Presidente, intanto la ringrazio. Vedremo come va a finire questo ricorso. Ieri c'era anche Mario Capanna. No, associato chissà perché. Mario Capanna, anche lui ha fatto ricorso. Era la zanzara. Sì. Anche lui ha fatto ricorso. Dai suoi uliveti in Umbria. Ha fatto. Anche lui, leader, certo, del 68. Ma fatto... difendiamo un principio, dopodiché siamo assolutamente disponibili a tutti i discorsi sulle riduzioni, sul contributo. Ma il principio, il principio è questo. Ma se si vuole attaccare il principio senza fare uno sforzo da parte di quelli che sono attualmente in carica, che non hanno... cioè, io continuo a dire, guardate che 50.000 euro esenti dalle tasse all'anno, io lo considero una vergogna. No, ma voglio dire, ma lo posso considerare una vergogna anch'io, però sono magari due vergogne diverse. Uno dice cominciamo a sistemarne una, però lei invece dice finché non, da coloro che non praticano un moralismo non accetto morali, ecco, questo lei dice. Va bene, Presidente Corbani, la ringrazio per essere stato con noi, stiamo a vedere questi ricorsi come vanno a finire, eh? Io ho già detto che sicuramente nell'Italia dei diritti acquisiti non si toccano alcuni. Quelli degli italiani magari sì, avrete certamente ragione. 24 mattino. Ah, c'è molta rabbia dai messaggi, questa storia dei ricorsi, lo so che fa molto arrabbiare, c'è anche chi ci evoca il basta di Giannino. Basta! Basta! Basta! Questo è Giannino. Giannino d'epoca, Giannino, grande Oscar. E allora vabbè, vedremo come va a finire questa storia, ma tanto i ricorsi verranno tutti accettati, avranno ragione. 8:52 minuti. Ciao Italia, siete pronti? Allora ci ascoltate dall'estero? Sì, lo so. Scriveteci allora a 24 mattino e tradio24.it, perché uno di voi al giorno lo chiameremo in onda. Vediamo se oggi siamo un po' più fortunati dal Kazakistan. Ieri eravamo rimasti con Paolo. Paolo! Ciao, vediamo se non ci abbandonano i potenti mezzi kazaki. Dove sei in Kazakistan? Ieri sul nome della città sei scomparso. Sono... che è un po' nel mezzo del nulla. È bellissimo perché sei scomparso. No, se il nome della città proprio non si vuol dire, perché lo devi ripetere, perché è ancora stato Karaganda. Karaganda. Mamma mia, che città, esatto. È? E che città è del Kazakistan? Com'è che sei finito? Sei deportato, non sei in prigione, no? Cosa ci fai lì? Fa abbastanza ridere, perché questa città è stata fondata proprio dai... è stata costruita dai prigionieri dei gulag sovietici. Ah, ecco, vedi. Che città è? Descrivicela un po', Karaganda. È una città nel centro del paese, circondata dalla steppa, però è una città abbastanza grande, più di 500.000 di abitanti, una città industriale, il centro carino, con negozi, ristoranti, dei viali alberati, un posto piacevole alla fine. Posto piacevole, vado a fare un giro a Karaganda. E quanti gradi ci sono in questo momento a Karaganda? Non fa freddissimo, quindi siamo attorno ai meno 15 più o meno. Eh beh sì, perché quelle sono più o meno le temperature. Temperature miti, sì. Meno 15. Cosa ci fai, Paolo, a Karaganda? Soprattutto perché ci ascolti da lì, sei matto, vero? Beh, vi ascolto perché comunque è bello tenere i legami con le tradizioni in Italia, lo ascoltavo sempre, per cui internet ormai offre queste possibilità infinite. Infatti. E sono qui perché sono un insegnante di inglese in una scuola locale. È fantastico. Cioè, ma dove hai trovato un annuncio? No? Sono curiosissimo, scusa, mi faccio un po' i fatti tuoi, ma d'altronde tu ci hai chiamato. E allora, hai trovato un annuncio, cercasi insegnante di inglese a Karaganda? Sì, ci sono dei portali ovviamente per insegnanti di inglese, che sono lavori, diciamo, richiesti un po' in tutto il mondo, per cui ci sono dei portali con delle offerte da ogni angolo del pianeta. E hai colto questa opportunità. Una certificazione, un diploma, basta solo scegliere. Beh, ma è bellissimo. Ma tu hai scelto lì perché avevi qualche legame, perché ti affascinava il Kazakistan, o perché volevi proprio trovare una località strana? Io ho viaggiato molto nell'area qui dell'Asia centrale, sono stato in altri paesi della zona, ma il Kazakistan mi mancava, e quindi ho detto perché no? Approfittiamone. Dimmi, che cosa ti manca di più dell'Italia? La pizza è un gran classico, perché il cibo tipico di Karaganda, qual è? La pietanza tipica di Karaganda? È uno stufato di, carne di cavallo con cipolle, robe varie. Mannaggia. Di tutto c'è dentro. Vabbè. E che cosa pensi per concludere dell'Italia invece di questo tuo amato paese da lì, visto che ci segui? Vabbè, credo che questo l'abbiamo già detto altri ascoltatori su Ciao Italia, ma è meglio non iniziare a parlarne, va. No, vabbè, dimmi che cosa, qual è la tua impressione, cioè siamo un paese, ce la possiamo fare, ci tireremo fuori dalle secche? Sono scettico. Sei scettico, va bene. Allora noi ti ringraziamo, Paolo, da Karaganda, Kazakistan, straordinario, dal Kazakistan ci segue. E voi ci seguite da dove? 24 Mattino e Radio24.it, iscriveteci. Saluto Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli. Insieme a Peter Bescapè in regia vi aspettiamo domattina, 6:30, puntuali.